Oramai per il caldo e la corsa non ci vede quasi più. Ha gli occhiali appannati, la bocca all'apposa, donna Nè, il fiato corto, e gli viene da fare come i cani quando tirano fuori la lingua. Ma non ne avrebbero giovamento. Il giovamento sono le 5.000 cantara di sulforo che deve assolutamente trovare, farsi imprestare. Sì, te lo sogni, oppure accattare. A peso d'oro, sì signore, sono disposto a pagarle. Mio caro Don Nenè, non è questione di prezzo. Intanto però non ci sono sante. Questo vapore russo, Ivan Tomorov, dal porto di Odessa, 6 giorni avanti, partito senza remissione, entro 7-8 ore dentro il porto di Vigata avrebbe gettato l'ancora. E tanto voleva che al posto dell'ancora ci avessero gettato lui stesso con la mazza dal collo. E infatti se lo rappresenta preciso il dialogo, Don Nenè. Capitano mio, il suo viaggio da Odessa fino a qui mi dispiace, ma è stata nottata persa e figlia femmina. Frase russa dal capitano che non ha capito una mata minchia e domanda maggior chiarimento. Ora venga e mi spiego. Lo zolfo che la ditta Jung aveva abbassato nel nostro magazzino e che lei è venuta a caricare, noi ce lo siamo venduto. Spavento russo del capitano. Sì signore, venduto ad altri. Lo so benissimo che era vostro. E non possiamo in nessuna maniera far fronte al carico, e queste figlie di Caiorda, dei colleghi magazzinieri, non solo non ci hanno voluto dare una mano, ma hanno magari il male di pancia per le risate che si stanno per camorra facendo. Erano anni che se ne stavano appostati dietro il pietrone ad aspettare un nostro sbaglio per farci pagare tutto col palmo e la gnuttagatura. E noi lo sbaglio ora l'abbiamo fatto. E quindi non sapeva che farci. Se ne potevano tornare a Odessa e tante salute a casa, sì, con la stiva vacante a disposizione dei sorci. Mentre per la ditta Salvatore Barbabianca e figli, buonanotte, avevano chiuso. Né per mare né per terra avrebbero più trovato un cane disposto a dargli fiducia. Restavano con una mano davanti e una di dietro. E intanto continua a correre, Don Nenè. Per davvero non ci vede più, eh? Sa di camminare sulle basole o sul battuto a seconda del rumore che le fanno le scarpe. E ad ogni no che riceve dentro di lui aumenta il contrasto fra la convinzione della rovina certa e l'incapacità a farsene convinto. Ancora gli restano 3 o 4 magazzini da visitare. Magari arrivato all'ultimo si inginocchierà davanti alla porta come un cavallo per la stanchezza, e se gli altri crederanno che si è inginocchiato per meglio convincergli, non gliele fotte niente. A lui gli importano solo quelle 5.000 cantara, sangue, vita. Erano 2 i documenti che Don Totò, 70enne titolare della ditta Salvatore Barbabianca e figli, dalla mattina alle 8 leggeva e rileggeva. In alto a sinistra c'era scritto Emil Jung e subito sotto Palermo. In alto a destra c'era scritto invece Palermo, lì, 2 luglio 1890. Subito sotto, al centro del foglio, c'era scritto Ordine in Zolfi. E più sotto ancora c'era scritto Signor Salvatore Barbabianca e figlie, trattino Vagata. Quindi il foglio continuava: in forza del presente ordine interrate, sarete compiacenti consegnare al signor Alessio Paruskin, comandante nave Ivan Tomorov, proveniente da Odessa, cantara 5.000 zolfi di qualità seconda. Eseguita la consegna, vi ritirerete il presente quittanzato e soddisfatto per la comune cautela. Con tutta stima, vi saluto, Emil Jung. Il secondo documento era assai più corto, un telegramma giallino che diceva: consegnate cantare 5.000, nave Tomorov in arrivo, vostro porto, pomeriggio martedì 18, salute, Jung. Tutto a posto, perciò. solo che non si spiegava come un telegramma spedito da Palermo giorno 15 era giunta a Vegata giorno 18, il giorno stesso cioè in cui la nave doveva attraccare. Da Palermo a Vegata erano 200 chilometri, tanto valeva che glielo avessero mandato con uno a piedi. Questo era il punto. Se il telegramma fosse arrivato, come de regola, lo stesso giorno della sua spedizione, lo stesso giorno 15, Don Totò avrebbe avuto tutto il tempo di parare la botta.